La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, assassinato il 3 settembre del 1982 insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro a Palermo, dove ricopriva la carica di prefetto. Per l'omicidio di Dalla Chiesa sono stati condannati all'ergastolo come mandanti i vertici di Cosa Nostra. Ospite ai nostri microfoni Luciano Mirone, autore del libro A Palermo per morire, i 100 giorni che condannarono il generale Dalla Chiesa, appena pubblicato da Castelvecchi. Radio 24, in collaborazione con History Channel, in seguito vi farà ascoltare un radiodocumentario dedicato alla realizzazione del film Il Padrino, diretto da Francis Ford Coppola. Uscito negli Stati Uniti nel 1972, il film incassò circa 86 milioni di dollari. Fu un successo planetario, oltre ogni aspettativa del regista, del cast e dei produttori. Ma la parola adesso va a Dino Pesole. È il 3 settembre del 1982. Alle 21:10 un attentato, una strage gravissima riporta improvvisamente il paese nel buio degli anni di piombo. Questa volta la matrice della strage è mafiosa. Una raffica di Kalashnikov massacra un uomo che lo Stato ha inviato a Palermo proprio per combattere la mafia. Quell'uomo si chiama Carlo Alberto Dalla Chiesa. È generale dei carabinieri, nominato dal governo Spadolini prefetto del capoluogo siciliano. Quella sera di 30 anni fa, il generale Dalla Chiesa è in via Isidoro Carini a bordo della A112 guidata dalla moglie Emanuela Setti Carraro. Destinazione pare un ristorante a Mondello. Poco più avanti l'auto dell'agente di scorta Domenico Russo. Muoiono tutti. È una strage gravissima. Come racconta Luciano Mirone nel libro A Palermo per morire, i 100 giorni che condannarono il generale Dalla Chiesa, appena pubblicato da Castelvecchi, nei giorni che precedettero il suo assassinio, il generale era preoccupato. Era forte la sensazione di essere stato lasciato sostanzialmente solo. Nella stessa giornata in cui era stato ucciso Pio La Torre, il governo affrettò una decisione già presa alcune settimane prima: inviare in Sicilia, con la carica di prefetto di Palermo, l'eroe della guerra al terrorismo, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, colui che aveva sconfitto pochi anni prima le Brigate Rosse. Il 2 aprile 1982 il comitato interministeriale composto dal presidente del Consiglio Spadolini e dai ministri Rognoni, Formica, Altissimo e Di Gesi procede alla nomina. Il giorno stesso il generale scrive a Spadolini e chiede poteri adeguati per una guerra molto più difficile di quella contro il terrorismo. Dalla Chiesa è consapevole di essere stato mandato a Palermo per tacitare un sistema che avverte i primi scricchiolii di un'implosione che avverrà 10 anni dopo. Eppure il suo senso del dovere lo porta ad affrontare il rischio. Ecco allora che la cronaca di una morte annunciata diventa la cronaca straziante di un uomo che, pur essendo ancora in tempo per salvarsi, non ha esitazioni e corre incontro alla morte. Mentre è in volo per Palermo, scrive ai figli: «Miei cari ragazzi, vi scrivo da 7 o 8 mila metri di altezza, verso il mio nuovo incarico. Vi voglio bene, tanto. Vi chiedo di essermi vicino». Buonasera, Mirone, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, grazie a voi per avermi invitato. Perché il governo Spadolini non accordò al generale Dalla Chiesa quei poteri che lo stesso generale aveva posto in qualche modo come condizione per avviare con qualche successo la lotta alla mafia? Teoricamente perché non ci fu il tempo, perché erano stati promessi quei poteri e non ci fu il tempo. Praticamente perché all'interno della maggioranza c'erano delle forze che evidentemente premevano affinché questi poteri non venissero conferiti al generale. Quando parlo di forze all'interno della maggioranza mi riferisco soprattutto alla corrente andreottiana, che il generale stava indagando nell'isola e che evidentemente era la corrente, secondo il generale, poi diventato prefetto, più inquinata della Sicilia. Quindi diciamo che i motivi fondamentali di questa mancanza dei poteri a Dalla Chiesa furono questi. Infatti lei nel libro, citando anche quanto ha sostenuto il figlio del generale, vale a dire Nando Dalla Chiesa, ricorda come lo stesso Nando Dalla Chiesa abbia definito quello di suo padre sostanzialmente un omicidio politico. E quindi è la conseguenza di questo ragionamento che lei sta facendo, dunque. Ma secondo me gli è di più. Se noi consideriamo come omicidio politico, noi pensiamo che ci possa essere soltanto la matrice politica, cioè i politici. Io credo che invece ci fosse stata una convergenza più ampia, dove c'è sì la politica, dove c'è sì la mafia, ma dove c'è anche la P2, dove c'è anche dove ci possono essere servizi segreti deviati. Perché dico questo? Perché quello è un periodo contrassegnato da questo contesto. Non dobbiamo dimenticare che siamo negli anni della guerra fredda, non dobbiamo dimenticare che 2 anni prima in Sicilia muore Piersanti Mattarella, il presidente della regione siciliana che vuole moralizzare la politica nell'isola, e pochi anni prima c'è stato il delitto di Aldo Moro. Cioè. E ora dopo tanti anni scopriamo che Aldo Moro non è stato ucciso soltanto, sequestrato e ucciso soltanto dalla BR, ma ci furono delle entità che operarono assieme alla Brigate Rosse per sequestrare e uccidere Aldo Moro. Queste entità sono quelle che io appena ho accennato. Ecco, ma come si arrivò dal punto di vista, come dire, operativo, concreto, alla strage? Nel libro lei ricostruisce gli attimi che precedettero questo drammatico evento della storia nazionale. Cioè, quando si decise che il generale della Chiesa doveva morire? Ma io penso che si è deciso nel momento in cui fu mandato a Palermo. Però operativamente l'urgenza nacque, a mio avviso, subito dopo che Dalla Chiesa rilascia la famosa intervista a Giorgio Bocca del 10 agosto, e quindi poco meno di un mese prima, del 10 agosto del 1983, del 1982, quindi pochi giorni prima, quando Dalla Chiesa dice a Giorgio Bocca: mi colpisce il policentrismo della mafia, ormai la mafia non è soltanto a Palermo, ormai la mafia è anche a Catania, riguarda i 4 imprenditori più famosi della città e dell'isola, i 4 cavalieri del lavoro, i quali vengono a Palermo con il permesso della mafia palermitana, fanno affari. Questi 4 cavalieri del lavoro sono imprenditori che hanno appalti in tutto il mondo, grazie alle loro forti aderenze politico e qualcuno anche piduistico, e anche ai legami con il principale boss di Catania, che è Nitto Santa Paola, il quale Santa Paola non è un boss da nulla, ma è un personaggio che sostituisce Giuseppe Calderone, che uccide Giuseppe Calderone negli anni 70, e Giuseppe Calderone fu colui che sabotò l'aereo, assieme ai servizi segreti americani e francesi, l'aereo di Enrico Mattei quando Enrico Mattei decollò dall'aeroporto di Catania Fontana Rossa per avviarsi a Milano. Quindi un personaggio di grandissimo livello che negli anni della latitanza viene scortato dai carabinieri. Attenzione, non da mafiosi vestiti da carabinieri, ma da carabinieri veri e propri. Bene, adesso facciamo insieme un piccolo passo indietro, siamo nel 1981 e ascoltiamo insieme questo passaggio dell'intervista che il generale Dalla Chiesa concesse a Enzo Biagi. Ma io so che ci si parla di mafia, si esamina la mafia dal 1861. Quindi vorrei dire che più che rinnovarsi di mafia è un rinnovarsi di esami, di analisi da parte di commissioni parlamentari e non, mentre invece questo rinnovo avrebbe dovuto comportare volta a volta strumenti idonei a garantire a chi operava di poter contenere e reprimere la mafia. E si è fatto sì che nel tempo dall'aia colonica la mafia si sia potuta trasferire anche nelle pieghe delle istituzioni dello Stato. Ecco, Luciano Mirone, quella sera del 3 settembre del 1982 fu un inferno di fuoco. Vennero sparati, lo racconta nel libro, 300 pallottole in pochi secondi. E poi i sicari a bordo delle moto spararono il colpo di grazia sia al generale che alla moglie. Ecco, un'ultima Domanda, perché tanta ferocia anche nei confronti di una donna? Normalmente l'omicidio di una donna non dovrebbe rientrare nei codici mafiosi. Infatti non rientra nei codici mafiosi. Evidentemente se uccisero Emanuela Settigarraro, la mafia aveva i suoi motivi. E i motivi erano dovuti al fatto che dalla Chiesa confidava alla moglie determinati segreti. Segreti sulla nuova mafia e anche probabilmente segreti di un recente passato che probabilmente risiedevano nel sequestro e nella morte di Aldo Moro. Non dobbiamo dimenticare che Nino Pecorelli fece alcuni scoop che riguardavano proprio il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro, parlando di un generale Amen, con riferimento alla Chiesa, che sarebbe stato ucciso e che poi non venne ucciso dalla mafia, e al posto del generale, mi riferisco io al periodo immediatamente successivo al caso Moro, venne ucciso proprio Nino Pecorelli. Bene, tante grazie e buona serata. Grazie a lei, buonasera. Bentornati alla seconda parte della Storia e la Memoria. Radio 24, in collaborazione con History Channel, vi presenta un approfondimento dedicato alla realizzazione del film Il Padrino. Diretto da Francis Ford Coppola, Il Padrino narra le vicende di una famiglia italo-americana dedita al crimine, ambientata negli anni 40. La trama è liberamente ispirata all'operato di mafiosi realmente esistiti che agivano fuori New York City. Ancora oggi, dopo più di 40 anni, Il Padrino e i suoi sequel intrattengono, intrigano, spaventano e coinvolgono. Vi ricordiamo che la versione integrale del documentario andrà in onda domani, domenica 16 settembre, alle 21. Su History Channel. Originariamente pubblicato nel 1969, Il Padrino è il quinto romanzo dell'autore Mario Puzo e, al contrario dei precedenti, diventa un famosissimo bestseller. Storia di una famiglia di New York dedita al crimine, Il Padrino suscita interesse anche prima della sua pubblicazione. Con una mossa sorprendente, il capo della produzione della Paramount Pictures, il 38enne attore diventato magnate Robert Evans, ingaggia un regista relativamente sconosciuto, con pochi titoli e un nome audacemente lungo, Francis Ford Coppola. Nonostante abbia già all'attivo una manciata di film hollywoodiani, tra cui il film musicale Sulle ali dell'arcobaleno con Fred Astaire, Coppola si considera un outsider, un anticonformista con un forte spirito indipendente. Preferisce operare dalla California del Nord, non da quella del Sud, dove dirige la sua casa di produzione American Zoetrop. Francis Ford Coppola, regista di Il Padrino. All'epoca avevo circa 27 anni e volevo essere quello che a San Francisco chiamano un regista personale. La mia aspirazione era occuparmi di cinema, non diventare un grande regista di Hollywood. Molto del romanzo originale era stato scritto unicamente per vendere, quindi non ero particolarmente intenzionato a realizzare il film. Però non avevo soldi e il mio allora giovane assistente George Lucas mi disse: «Francis, trovati un lavoro, perché lo sceriffo ci farà chiudere American Zoetrop se non paghiamo le bollette. Fai questo film». Quindi alla fine accettai l'incarico e iniziai a scrivere la sceneggiatura. Presi il libro e sottolineai tutto quello che avrei potuto usare. Il suo approccio da outsider al cinema si rivela evidente quando Coppola inizia ad assegnare i ruoli. Per quelli principali predilige attori quasi sconosciuti, o nel caso di Marlon Brando, impopolari tra gli studios di Hollywood. Tra tutte le scelte di casting del regista Francis Ford Coppola, la più controversa e difficile da accettare per gli studios è forse quella di affidare al giovane attore Al Pacino il ruolo del figlio minore di Vito Corleone, Michael. Al Pacino. Mi chiedevo perché Francis vuole che interpreti questo ruolo. Preferirei essere Sonny, un personaggio più corposo, più impegnativo e più divertente da interpretare. Come si interpreta Michael? Pensai, se Francis mi vuole come Michael, vede qualcosa che a me sfugge. La produzione di Il Padrino inizia il 23 marzo 1971. La location principale, la residenza della famiglia Corleone, è a Staten Island, New York. Nonostante l'intensità della drammatica trama del film, la tensione sul set viene spesso allentata dalle stravaganti trovate degli attori, in particolare di Marlon Brando. Ma per Francis Ford Coppola, scrivere, produrre e dirigere Il Padrino non è uno scherzo. Lo sforamento del budget, i ritardi di produzione e la costante interferenza degli studios rendono la realizzazione del film un incubo. Ancora Francis Ford Coppola. Ero in guai seri durante l'intera realizzazione del film per quanto riguardava lo studio. Il film era sulla buona strada per diventare un fallimento e tutti lo odiavano. Ricordo che una volta in sala di montaggio tutti parlavano di un film sensazionale intitolato Il braccio violento della legge e uno degli assistenti al montaggio disse: è un film entusiasmante ed elettrizzante, un vero film. Al che io dissi: in confronto la gente crederà che Il Padrino sia solo un film cupo, lungo e noioso. E lui rispose: sì, mi sa che hai ragione. Il Padrino viene presentato in anteprima mondiale all'Oz State Theater di New York il 15 marzo 1972. Dopo anni di trattative e problemi durante la produzione, il destino del film è ora nelle mani del pubblico. Il Padrino narra le vicende di una famiglia italo-americana dedita al crimine. Ambientata negli anni 40, la trama è liberamente ispirata all'operato di mafiosi realmente esistiti che agivano fuori New York City. Al contrario di altri film sulla mafia, Coppola e lo scrittore divenuto sceneggiatore Mario Puzo scelgono di mostrare il lato più vulnerabile ed umano di ciascun personaggio. Ancora Francis Ford Coppola. Sono un italo-americano cresciuto a New York con la mia famiglia, composta da musicisti e operai, quindi conoscevo bene certe esperienze. Volevo attingere il più possibile dalla mia esperienza personale per mostrare al pubblico come si viveva, come si stava in casa, cosa si mangiava e qual era l'atmosfera che si respirava quotidianamente nell'ambiente familiare. Quindi ho intenzionalmente voluto rifarmi a molti ricordi personali della mia vita, con l'intenzione di conferire al film maggiore autenticità. Negli anni 70, gli spettatori vivono in un mondo minacciato da drastici cambiamenti sociali. Indietro! Fate l'amore, non fate la guerra! Fate l'amore, non fate la guerra! Le istituzioni come il matrimonio e la famiglia sono prese di mira dalla controcultura. E l'attenzione incentrata sul forte e intenso legame tra Don Vito e la sua famiglia mafiosa ne Il Padrino è per contrasto tradizionale e rassicurante. Al Pacino, nel film, interpreta Michael Corleone. Ritengo che Michael non si sia mai sentito davvero a proprio agio con se stesso e credo debba ancora adattarsi alla nuova America e ai suoi valori, finché decide di entrare nell'esercito e diventa un eroe di guerra. Dopo il tentato assassinio di suo padre, Michael Corleone è costretto a unirsi ai suoi fratelli per proteggerlo e vendicarlo. Eroe decorato di guerra, ora Michael combatterà per difendere qualcosa persino più importante del suo paese. La sua famiglia. Ma nel proteggere Don Vito, Michael Corleone viene trascinato in quel mondo di crimine e corruzione da cui suo padre aveva sempre voluto tenerlo lontano. Ancora Al Pacino. Michael prende decisioni su due piedi. È uno pragmatico. Ed è questo che lo rende un buon leader. È concreto. Credo sappia che bisogna affrontare le situazioni che si presentano. È in qualche modo un sopravvissuto. L'atto di vendetta di Michael, che ricorda il grande exploit dell'eroe descritto in molti antichi miti e leggende, cambierà per sempre il suo destino. Ancora Francis Ford Coppola. Il mito deriva da principi umani base. Si origina per cercare di spiegare il comportamento umano, la vita umana. Quindi è in noi, è nella nostra anima. Al Pacino, nel film, interpreta Michael Corleone. Un attore cerca qualcosa che gli piace in ogni personaggio che interpreta. A me piace la sua lotta e le difficoltà che attraversa. Mi piacciono i conflitti che vive e il modo in cui cerca di gestire questo mondo che ha ereditato. Francis Ford Coppola. La storia di questa famiglia aveva un che di shakespeariano. C'era un grande re con tre figli, ognuno dei quali possedeva qualcuna delle caratteristiche del padre, ma nessuno dei tre le aveva tutte. Il figlio minore aveva la scaltrezza, il mediano la dolcezza e il primogenito la rabbia e la violenza. Il film termina con la trasformazione di Michael Corleone da innocente a malvagio. Ma la storia non finisce qui. La mattina dopo l'anteprima a New York nel 1972, la critica e il pubblico elogiano Il Padrino come un film avvincente, esplosivo e brillantemente drammatico. Alla fine della settimana è già chiaro che il film ritenuto da Coppola un potenziale fallimento sarebbe invece diventato un fenomeno globale. Ancora Francis Ford Coppola. L'inaspettato successo del film mi colse di sorpresa. Mi viene da pensare che il diavolo mi abbia proposto un patto del tipo: ehi, se mi vendi l'anima, farò de Il Padrino un film di enorme successo. Deve essere andata così, è l'unica spiegazione. E non me lo ricordo, perché forse dimenticarsi di averlo stipulato fa parte del patto. Quasi dal giorno alla notte, Il Padrino diviene un fenomeno della cultura popolare. Si vendono milioni di memorabilia del film, come poster di Marlon Brando nei panni di Don Vito Corleone. Lo stile mafia chic degli anni 40 diviene quasi una mania e le citazioni del film entrano a far parte del linguaggio nazionale. Il Padrino guadagna 10 nomination agli Oscar e ne vince 3. Miglior sceneggiatura non originale, miglior attore per Marlon Brando e miglior film dell'anno. Considerato l'enorme successo al botteghino de Il Padrino, per la Paramount l'idea di realizzare un seguito è irresistibile. Ma per Francis Ford Coppola, il regista infastidito dalle continue minacce di licenziamento durante la fase di produzione, l'invito a ritornare nel mondo dei Corleone non è così attraente. Ci voleva davvero un'offerta che il regista 34enne non poteva rifiutare. Ancora Francis Ford Coppola. Non avevo intenzione di fare un secondo film. Ho accettato solo perché mi era stata data carta bianca per rendere Il Padrino parte seconda totalmente mio. Inoltre, ho sempre voluto girare un film in cui si racconta la storia di un padre e un figlio. Non è un caso che questo fosse il film preferito di potenti pezzi grossi come Saddam Hussein e Gheddafi, perché Vito Corleone e i suoi figli sono persone potenti. E la logica di Il Padrino è il capitalismo nella sua forma più pura. Al Pacino. Il Padrino è la definizione del sogno americano e del significato di famiglia. Per chiunque, in tutto il mondo. Avete ascoltato il documentario realizzato in collaborazione con History Channel dal titolo Il Padrino, la vera storia, per la regia di Kevin Burns. Casa di produzione Prometheus Entertainment, titolare dei diritti AETN. Vi ricordiamo inoltre che la versione integrale del documentario andrà in onda domani, domenica 16 settembre, alle 21, su History Channel. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Anita Panizza. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.